Si può, si può, signore, signori, scusatemi se da sol mi presento, io sono che va a riprendere le vecchie usanze e voi di nuove inviami. Ma non per dirvi come pria le lacrime che noi versi non son false degli spasimi e dei nostri martir, non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato ben voce tingermi uno spareggio di vita. Piglia per massima sol che l'artista è un uomo per gli uomini scrivere i dame ed al vero ispiratasi. Un nido di memorie in fondo alla dell'odio e tristi frutti del dolore e gli spasimi pur di un patio prete e risaggite e voi io posto e nostre andiamo in camera tua.